24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Fabio Franceschi, imprenditore, 45 anni, sposato con 3 figli, presidente della Grafica Veneta, giovanissimo, eredita la tipografia di famiglia, la trasforma nella più grande azienda di produzione di libri. L'unica in grado di stampare, rilegare, consegnare un libro in tutto il mondo in 24 ore. È stato nella Confindustria di Padova, in quella del Veneto, col giornalista Stefano Lorenzetto, ha scritto un libro, Italia che vorrei, che è un inno al buon senso per risolvere i nostri problemi. Sembra uno di quegli imprenditori prossimi allo scendere in politica, intanto è anche azionista del Fatto Quotidiano. Ecco, dottor Franceschi, si aspettava lo scontro tra Santoro e Travaglio? Buongiorno. Diciamo che c'è stato un piccolo battibecco, sono due caratteri un po'. Sì, ma lei sta con Santoro o con Travaglio? Sono entrambi due amici, sa, purtroppo. Ma fra di loro non lo so se lo sono ancora tanto. Sì, ma Marco, sa, purtroppo anche quella serata era una serata un po' difficile. Sì, quindi... Però Travaglio ha detto: non mi sento una marionetta. Ma perché? Chi gli ha mai detto che era una marionetta? Ma guardi, forse aveva una serata un po' difficile quella lì, dai, su. Ma però penso che io stimo Marco perché penso che sia uno dei più grandi giornalisti. E Santoro? Beh, Santoro non si può discutere, lo sappiamo tutti. Vabbè, quanto insomma, difficile. Lei dice pace fatta. Sì, penso pace che sia fatta. Ma che cosa l'ha convinta a diventare azionista del Fatto, lei? Beh, è stata un'opportunità un po' particolare perché era una situazione che stavamo valutando da tempo. Ma è un investimento finanziario o da cittadino impegnato? Entrambi, guardi. Sì. Mi piace perché è un'azienda che nonostante tutti gli altri vadano male perché... Beh, anche loro calano, eh? Sì, calano, ma guardi che anche l'anno scorso hanno chiuso con degli utili veramente importanti. Sì. Se guardi il mercato, se guardi realmente come stanno andando le cose, stanno andando bene. Senta, però i giornali calano in tutto il mondo, è una crisi irreversibile secondo lei? Beh, sicuramente il digitale è un servizio strepitoso che fanno, perché se tu sei alle Bahamas e ti stai facendo una settimana di ferie, sei aggiornato in tempo reale su cosa si succede. Quindi il modo di cambiarsi, il modo di informarsi è cambiato definitivamente? Non definitivamente, sicuramente una buona percentuale andrà sul digitale, però la carta, buona parte della popolazione ha un legame con la carta, non ci saranno un milione di copie, però sì, rimarrà questo. Lei quindi crede nel futuro del Fatto? Ma io sì, lo vedo ben gestito ed è fatto con un criterio che non può andare male. Senta, parlando ancora di giornali, lei stampa il supplemento del New York Times e della Pravda, ma come è riuscito? Beh, il Times è nato ancora nella questione della campagna elettorale di Obama, che avevano un'esigenza velocissima, cioè gli serviva un libro in un giorno e noi gliel'abbiamo fatto. Gliel'avete fatto, ma... La Pravda, lì abbiamo delle aziende anche che sono specializzate, cioè abbiamo esportato l'esperienza che abbiamo fatto in Italia, l'abbiamo portata in Russia, solo che in Russia sono 300 milioni, 310 per l'esattezza. In un giorno. E lì stiamo andando abbastanza bene. Supplemento anche... in un giorno della Pravda? No, della Pravda lì è tutto molto più pianificato perché ci sono lì, abbiamo sempre tempo una settimana. Ma è più difficile, Franceschi, trattare con gli americani o con i russi? Guardi, i russi sono i campioni del mondo per le difficoltà. Peggio che l'Italia, No, guardi, i russi ci possono fare da maestri. L'altro giorno, dopo che abbiamo firmato un contratto, uno mi ha detto: guarda, che il contratto è solo un'indicazione di quello che si pensa. Ho detto: vabbè, allora noi ci lamentiamo delle nostre burocrazie. Senta, ma trattando con entrambi, ha sentito un po' aria di guerra fredda o no? Diciamo che i russi vogliono dimostrare che sono presenti anche loro nel mondo e che hanno una certa importanza e la voglio tirare fuori da qualcosa che... Insomma, orgoglio, di nuovo l'orgoglio della Santa Russia. Lo prendono dappertutto, guarda. Senta, comunque, è un mondo che, l'abbiamo detto, è sempre più digitale. Lei controcorrente, stampa libri, ne stampa tanti, sempre di più in un giorno solo. Quanti ne stampa? In un giorno arriviamo a farne 1 milione. Milione di libri in un giorno. Sì, tranquillamente. Ecco, ma tutte le statistiche ci dicono che la gente legge sempre di meno. Come pensa a continuare a svilupparlo questo business? Ma guardi, come svilupparlo? Noi abbiamo programmi ancora di crescita abbastanza importanti. Aumenti la base della piramide, il mondo è enorme. Enorme, ma nessuno legge. Senta, ma gli ebook sono una concorrenza che fa paura oppure no? Guardi, fino a qualche mese fa stavano crescendo a due cifre, oggi si sono un po' stabilizzati, sicuramente daranno qualche problema al nostro business maturo della carta, però vede, un libro stampato è sempre un libro stampato. Quindi... Però le nuove generazioni vanno tutte nella direzione del digitale? Buona parte sì. E quindi lì diminuirà il suo... Sicuramente. Ah, guardi, tanto c'è tempo. Abbiamo ancora qualche ora di vita. Vabbè. Qualche ora di vita. Senta, Franceschi, lei ha detto: sono convinto che il web non genererà mai gli stessi profitti della carta stampata. Ma vede, il web secondo me è un grosso problema solo perché non è controllato. Cioè, prendi un libro e dopo due ore lo trovi già gratuitamente sul digitale, capisci? Vabbè, che... però è capitato anche per la musica questo. Sì, difatti è morta. Ha capito? Sì. Quindi, cioè, non è che lei ha proprio messo il dito sulla piaga. È appunto perché stiamo guardando cosa è successo nella musica, perché purtroppo case editrici e tutto un insieme di cose, tutto un insieme di strutture hanno le loro spese e non ci si può trovare. Mi ricordo sempre il film di James Bond che dopo un quarto d'ora appena uscito era già in rete. Cioè, cose assurde. In realtà però le over the top sono le padrone del mondo, quindi si passa di lì. Ma non direi proprio così, guardi, secondo me deve essere governata la rete, sennò non potrà mai esprimere le sue vere potenzialità. Senta Franceschi, lei comunque continua, stampa e guadagna, sempre meglio così, proiezioni di business ottime. No, siamo contenti, stiamo crescendo, guardi, in un mercato che è meno 20 crescere anche di due punti è già un miracolo, noi stiamo crescendo, non ci lamentiamo. Il suo segreto qual è? Ma guardi, abbiamo dovuto cambiare totalmente i processi e anche il servizio, cioè fino a qualche anno fa, cioè, che il mercato andava bene, si poteva anche essere rilassati, ora anche la divisione H24 mi creda sono 100 metristi, perché produrre un libro in 24 ore e consegnarlo in Germania in 24 ore mi creda che non è facile. Ecco, la forza è quella lì, un po' la nostra. Ecco. Ecco, il suo biografo Stefano Lorenzetto dice che lei ha cominciato a fare il tipografo a 4 anni sotto il tavolo di cucina. Che cosa ha imparato lì, sotto il tavolo? Diciamo che abbiamo conosciuto un po' la fame, quella non la cancelli. Mangiava solo una volta al giorno? Diciamo mi tenevo in forma. Riusciva. Al contrario di adesso, no, diciamo che sono stata una nostra una famiglia umile che col tempo è un po' cresciuta, siamo stati anche fortunati. Beh, magari bravi. Senta, che cosa le ha insegnato la povertà, Franceschi? A tenere i piedi per terra, anche se le cose vanno bene è meglio sempre ricordare come si può ritornare. Ed è riuscito a insegnarlo ai suoi tre figli questo? Penso proprio di sì. Sì, hanno i piedi per terra, è contento. Sì, forse più di me talvolta. Ah, accidenti. Il sognatore lei in casa? Ci sono dei giorni che faccio dei voli pindarici, ecco. Senta Franceschi, lei fa funzionare la grafica veneta, la sua azienda, con energia solare e distribuisce l'energia che è eccedente alla sua comunità. È la dimensione sociale della sua impresa questo, o la vende? Ma sì, viene ceduta all'Enel, che l'Enel vende, però è una cosa meravigliosa, guardi, vedere uno stabilimento, che il nostro è lungo quasi un chilometro, che funziona tutto con la luce del sole. E quindi diminuisce anche il costo di produzione? Beh, sicuramente. Sì, è una delle ragioni del successo? Diciamo, anche questo ha aiutato, però... una persona, io amo veramente l'ambiente, cerco sempre anche nei libri, abbiamo cercato che siano ecocompatibili, biodegradabili, cioè noi abbiamo una grande attenzione. Proprio una filosofia proprio che di tutta l'azienda. In Italia non interessa poco niente, ma per dirla nella parte alta dell'Europa abbiamo triplicato il fatturato quando abbiamo cominciato a dire che sono biodegradabili, carbon free e questo e quant'altro. Senta, ma ho letto che lei produce 200 milioni di libri l'anno, molti di più, quanti? Dai 300-400 milioni di libri l'anno, ma qual è il più stampato? Beh, guardi, abbiamo fatto le Bibbie, ne facciamo una quantità enorme, poi c'è stato il momento dell'Harry Potter che lì facendolo per quasi tutta l'Europa arrivavamo a farne 20-30 milioni. In questo momento ne stiamo producendo molti per la Russia, che è un certo Akunin, che lì ne facciamo una media di 8-10 milioni all'anno. Ma il più letto secondo lei fra tutti questi 400 milioni di... Ma il Corano, penso. Il Corano è il più letto? Sì, sì, sì, ne facciamo una valangata. Ma le fate e poi sapete che viene letto, perché la Bibbia anche dice ne fate tante, ma nessuno la legge. Il Corano, loro nella loro cultura, sappiamo tutti, il Muezzin te lo ricorda ogni, mi sembra, 8 ore, quindi sì. No, il Corano penso sia sicuramente il più letto. E a lei piace leggere Franceschi? Io guardi, ne spiego, ne vedo dai 40 ai 60 al giorno. C'ha il vomito? No, prendi una pagina di uno, due dell'altro, poi ce ne sono alcuni che proprio ti prendono. È l'ultimo che ha letto che le è piaciuto? Guardi, sto leggendo adesso il Ken Follett, perché quello lì non lo puoi non leggere, però ne leggerò 50 pagine, poi chissà quanti altri ne vedo. Senta Franceschi, ma distruggere le foreste del pianeta per produrre carta non la fa vergognare un po'? No, guardi, allora questa è una cosa da sfatare. E tutte le cartiere hanno dei loro, sono degli appezzamenti di terreno enormi, dove tagliano un albero, ne piantano due. Cioè quando sono arrivati alla fine del parco, all'inizio quelli che hanno piantato sono nuovi, cioè sono foreste dedicate esclusivamente all'utilizzo per la cellulosa. Senta, quindi... ma abbiamo detto che lei stampa per russi e americani, ma stampa per tutti, chiunque glielo chiede? Sì. Guardi, tutto il mondo. Adesso stiamo lavorando molto bene in Canada e in Perù, dove abbiamo anche un concorrente che ci sta dando qualche fastidio. Bravi, anche lì. Sì, sì, senta, ma ci sono libri che stampa che però non vorrebbe farlo? Beh, guardi, mi è capitato un libro che non voglio dire su cosa o come, gli ho detto, guarda, rimandalo all'editore perché io non glielo stampo. Quindi le è capitato di rifiutare dei libri? Guarda, quando vedo libri che infangano praticamente persone che non credo, io non glieli stampo, glieli ritorno. Senta, ma tecnicamente un libro al giorno come si fa? Beh, un libro, noi ne facciamo 50 no, al giorno. No, ma diciamo c'è bisogno l'H24. E purtroppo l'abbiamo fatto il nostro business, il nostro mestiere, e purtroppo non puoi sprecare un secondo, perché se tu trovi una problematica la devi risolvere in tempo reale, perché poi il camion fra 4 ore è lì che ti aspetta e mi crede. Ma scusi, ma l'idea del libro stampato in 24 ore come l'è venuta? Perché vedevo una quantità di materiale che andava al macero enorme ed era una vergogna. Io vedo un libro che va buttato via, soffro proprio. Allora ho detto, cerchiamo di dare al cliente un servizio che se le vendite vanno bene non si deve preoccupare, lui deve solo pensarlo a qualche vendere, ora prima. E questo ha sistemato i bilanci di tante altre realtà, perché mi creda, cioè a volte si stampavano su certi titoli importanti 100.000 copie e poi magari ne vendevano 30.000. 70.000 copie al macero era una vergogna. Ora ne fanno 30.000 e poi ne fanno 10.000 subito a esigenza. Senta Franceschi, il suo libro, quello che ha scritto con Lorenzetto, si chiama L'Italia che vorrei e sembra un documento di chi vuole passare dall'industria alla politica, è vero? L'ha pensato? Guardi, io sono ci ha pensato o no? No, no. Guardi, le dico la verità. Io sono innamorato del mio lavoro e mi piace troppo. Di certo lavoro 8 mesi l'anno per lo Stato e poi vederti che magari un giorno apri il telegiornale e ti dici nel Mose ci sono 2 miliardi di tangenti e farebbe incazzare. Ecco, lei è Veneto, no? Lei è Veneto, questa tangente del Mose, che impressione le ha fatto? Che impressione, sai, quando vedi un'opera che doveva costare 1 miliardo ne costa 7, che poi era non discussa di più. Insomma, la corruzione è un gangolo. Io penso che sia l'unico vero nostro problema italiano. E il bello è che ci viene conosciuto, riconosciuto da tutti a livello mondiale, e questo porta un rallentamento. Difficoltà nel nessuno rapporto. Viene in Italia in questo momento. Difficoltà a investire perché è troppa corruzione. Senta Franceschi, oggi sono tanti però gli imprenditori, i grandi manager che vogliono fare politica, per esempio Della Valle l'ha detto, ne ha le caratteristiche secondo lei? Beh, io Della Valle lo conosco non tanto, però è forte. L'ha dimostrato nel mondo che cos'è. E portato... come politico lo convincerebbe? Ma guardi, io non è che ho bisogno di un politico che mi sa far sorridere o che fa le battutine, io vorrei solo uno che va lì e sistema i numeri. Cioè, se lei pensa che abbiamo la liquidità per comprarci mezza Europa e però questa instabilità, questa situazione sta tenendo tutti a casa rinchiusi e non far niente, la cosa, ci sarà qualche problema da affrontare. Senta, anche Corrado Paolo passera, si è candidato a guidare un movimento. Lei ha detto mi piace, perché le piace? Perché l'ho visto all'opera al Ministero quando è stato fatto 220 decreti attuativi in pochi mesi. Tutti gli altri ministeri non hanno fatto i decreti che ha fatto Corrado in quei sei mesi. È uno che prima fa e poi dichiara, non come tanti che abbiamo adesso, che prima fanno un convegno e poi si dimenticano. Senta, lei ha detto che vorrebbe una dittatura morbida però di Marchionne, che le piace più. Cioè, beh, cosa vuol dire una dittatura morbida? Vorrei uno che arriva lì determinato, poche battutine, poca televisione e tanti risultati, perché il nostro, le ribadisco, è un paese meraviglioso. Potremmo ritornare a breve ad essere la terza, quarta potenza al mondo, non con questa politica, mi creda. Senta però cosa dice Passera di Marchionne. Ma Marchionne fa del bene o del male all'Italia? Complessivamente male. Perché? Guardi, i non risultati della Fiat Auto, gli impegni non mantenuti, la ritirata dall'Italia, tutto sempre giustificato in giro per il mondo, sputtanando il nostro paese, alla fine porta a un risultato pessimo nei confronti dell'Italia. Beh, duro. Duro è stato duro, magari avranno litigato qualche giorno prima. Dice che per quello. No, io penso, guardi, Marchionne ha preso qualche anno fa un'azienda tecnicamente fallita. Certo, oggi è si vero. È comprato la Chrysler e fa 2 miliardi di utile. E non c'è tanto da discutere. Senta. Però, intanto, in Italia governa Renzi. Davvero di lui, già un po' si è capito, non gli piace niente proprio. No, guardi, no. Ho detto una cosa che per me è fondamentale. È una persona onesta. Di certo, nel suo percorso, insomma, ha fatto solo politica, governare un paese... Ma lo conosce? Cosa. No. Sì, così, ma quella conoscenza che non puoi dire ciao... Che, ecco. Io dico che fondamentalmente è una persona molto onesta. In questi giorni si sta dando particolarmente da fare, però come industriale è ben bisogno di risultati. Senta, ma la proposta per esempio di IEDI, gli 80 euro per 3 anni alle neomamme, le piace? Guardi, sì o no? No, non mi dice niente, perché sicuramente, guardi, se lei incentiva, mi dice che a fare figli, io le dico un una problema. Cosa, senta, ma no, guardi, cosa no. Vuole che incentivi 80 euro un figlio te ne costa? Il concetto qual è? Abbiamo i stipendi più bassi e il costo più alto. Andiamo a lavorare sulle cose serie, non le 80 euro. Cioè, se noi dobbiamo dire ai nostri lavoratori dipendenti, lei mi spiega perché prendono il 30% in meno di un francese, che noi ne abbiamo anche una realtà lì. Allora, lavoriamo sulle cose, gli slogan, sa, purtroppo i politici hanno sempre la capacità di portare tutto Franceschi, però gli 80 euro, degli 80 euro, lei ha detto, anch'io sarei capace a convincere il 40% degli italiani a votarmi per conquistare questi mezzucci. Ma insomma, mezzucci? Tanta era in busta paga in più a chi ha poco, allora, sono una cosa. Senta, sia gentile. Sì, se lei mi dice io do a questi ragazzi 10% in più perché ho abbassato le tasse o qualcosa, ma se tu fai una cosa spot che... No, non è spot, è in busta paga per sempre. Guardi, hanno trovato il finanziamento anche per quest'anno su questa legge di stabilità, ma guardi, io non sto mica criticando. Va insomma, non ci aveva mai pensato nessuno, perché? Se è così un mezzuccio. Guardi, io penso che dovremmo andare a lavorare nei fondamentali delle cose. Cioè, Allora parliamo dei fondamentali. Sì. Nella manovra Renzi ha messo le imprese al centro della sua politica, la riduzione dell'IRAP e la trasformazione del mercato del lavoro. Non va bene neanche quello. No, non è che non va bene. Sì, ha ridotto l'IRAP di un 1%, però ci ha messo 6 punti nella ripartizione degli utili delle società. Quindi ci ha tolto il pranzo e l'ha sostituito con una caramella. Vabbè, insomma, lei non le piace questo Renzi. No, mi piace, però... Ma tra Camusso e Renzi preferisce Camusso, allora? Guardi che Renzi sta cercando di lavorare anche bene, solo che il problema qual è? Che non ci sono soldi e le cose non girano. Vabbè, e l'economia, secondo me, anche per il prossimo anno avrà qualche bel problema. Tra Camusso e Renzi chi preferisce? No, Renzi. Renzi in tutta assoluta, la vita. Sì, e Landini? No, Landini mi piace. Siamo visti una sera a Ballarò, ci siamo pure anche scambiati 4 parole. Non è una brava persona, a me piace. Ma nelle sue aziende i sindacati sono forti? Ma non abbiamo neanche un iscritto. Ah, niente sindacati, non c'è quel problema. Ma il TFR in busta paga aiuterà la ripresa o no? sicuramente arrivano dei soldi in più e che daranno dei risultati alle famiglie, cioè gli daranno un po' più di tranquillità. Quello che mi preoccupa è che quando uno ha una certa età che ha veramente forse bisogno di avere due lire da parte, si guarda un po'. Ma è volontario, se uno la vuole la chiede. Sì, no, sì, no. Però guardi, quando uno io sto guardando in azienda, dopo il 20 del mese sono pochi quelli che arrivano a fine mese, quindi se gli dai 100 euro non è che dicono ma gli aumenti un po' lo stipendio, visto che non c'ha sindacato. Guardi, se mi creda che è la prima cosa che farei, però se lei pensa che a 100 euro dato a un dipendente ti costa 300, non è che puoi fare 200. Nel nostro contratto è 2,4. Senta, ma lei allora cosa farebbe per dare una scossa all'economia? Guardi, io penso che principalmente dovremmo risolvere questo grosso problema che abbiamo di corruzione, perché non è più concepibile. E poi? Primo. Secondo, nella nostra proposta era, noi abbiamo milioni di dipendenti pubblici in più, ma non perché non lavorano, perché allora, gli dia un consiglio al ministro Madia, di una cosa da fare subito. Ah, guardi, io l'ho sempre detto. Passiamo un milione di dipendenti pubblici dal pubblico al privato. Io ne assumerei subito 100. Con che impegno? Me li assumo subito. E voi li pagate per 4 anni. Nel frattempo questi fanno reddito, io pago molte più tasse, imparano il lavoro, hanno ritorno, anche perché mi creda che nel pubblico c'è della gente meravigliosa, certo, molto brava. Io ho 3 ragazzi. Insomma, quindi passare dipendenti pubblici al privato, li paga lo Stato che li pagherebbe lo stesso per 4 anni, si riciclano esatto. E si sdelisce lo Stato. Si immagini anche che segnali, se cominciamo a lavorare, che la corruzione la sistemiamo un po' e mandiamo un segnale così internazionale. Senta, a mercati internazionali il lavoro si vede. Senta, in Veneto lavorano molti extracomunitari che aiutano l'economia del Veneto a reggere, però il problema dell'immigrazione è sempre più forte. L'Europa parla, ma non ci dà una mano. Che fare? Guardi, per noi è stata una grande risorsa, purtroppo oggi non ce ne abbiamo neanche. Che fare? Noi. Che fare? No, non c'è tanto da inventarci qua. Cioè? Bisogna cercare di riuscire a far ripartire la macchina, perché se non c'è lavoro anche il nostro nord-est, fino a 4-5 anni fa avevamo 7 punti di PIL in più della Bavaria, oggi siamo anche noi tirati. Lei è credente? Eh? Certo, ci mancherebbe. Le piace Papa Francesco? Molto, molto. Perché? Perché quello che vedi è... E quindi è una persona che veramente ti trasmette la serenità che in qualsiasi momento hai bisogno. Lei è favorevole alle nozze gay? Ma guardi, io tutto quello che è amore e sentimento lo rispetto. Dire favorevole anche sì, perché sinceramente non fanno del male a nessuno. Senta, lei ha detto, per rivoluzionare l'economia il governo dovrebbe venire qui dove lavoro io a vedere come si fa. Cosa vedrebbe? Vedrebbe cosa vuol dire lavorare 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno e ogni secondo alla stessa intensità di quello prima. Senta, dottor Franceschi, faccio un'ultima domanda. Il grande Adriano Olivetti, l'imprenditore illuminato, geniale, diceva che nessun dirigente deve guadagnare più di 10 volte il guadagno del salario minimo del suo operaio. Lei è d'accordo? Guardi, siccome no, non sono d'accordo, perché a volte certi dirigenti che hanno dei numeri strepitosi ce li andiamo a prendere in giro per il mondo. Se andiamo lì sono loro che dettano lo stipendio, non noi. Quindi no. Certo che sia giusto che uno prende 10 e l'altro 0,1, insomma, no, non ci sta, insomma, bisogna essere un po'. Il problema penso che sono bassi gli stipendi, non altri compensi dei dirigenti. Mix 24. Allora, titolo Mario dell'intervista? È facile, la carta canta. Franceschi, la carta canta. E tu Pietrangelo? Corano batte Bibbia per knockout. Mamma mia, l'ha detto lui. Che libro più letto. Più letto. No, il più stampato, ma il più letto. Sì. Quando non si è più una strada da tentare, girare non puoi, tornare guai. Perso fra mille semmai, perché mi cerchi, dove mi porti, tesoro di cielo. Allora, lunedì così? E lunedì così, perché la vita non è mai dove si pensi che sia. Le mani sono mani di ghiaccio, gli occhi sono occhi di una che ha pianto tanto, e poi lui che canta che quando la cerca non sa altro cosa fare di se stesso che cercare e cercarsi, e c'è delicatezza, melancolia e metafisica nell'album Applausi a prescindere di Stefano Vergani, e questo brano è Guardare le stelle non è come leggere il giornale. Cioè? Fammi capire, guardare le stelle non è come leggere il giornale, perché? Perché nelle stelle tu vai a cercare innanzitutto te stesso, sapendo di non trovarti, ma sapendo pure che nelle stelle c'è solo la traccia di quel che sei. Guarda che quando ti trovi sul giornale vuol dire che è successo qualcosa. Sì. No, quando ti trovi sul giornale è grave, quando... perché non capita mai, o rarissimo, bolle! Mi incuriosiva questa delle stelle. Ogni tanto i comandanti russi, per vedere se sono seguiti, virano all'improvviso. È il cosiddetto Ivan il Matto. L'unica cosa da fare è il morto, spegnere i motori e diventare invisibile. Ma non è una cosa facile. E cioè, il fatto è che un sommergibile di queste dimensioni non si ferma di colpo. E se siamo troppo vicini, derivando, possiamo investirlo. Qualcosa è successo in questi giorni al largo delle coste della Svezia, perché qualcuno, evidentemente Ivan il Matto, l'ha fatto, nel senso che ha spento i motori. O così almeno pensano gli svedesi. C'è una sorta di caccia a ottobre rosso. Siamo in ottobre e il sommergibile pare sia proprio rosso, nel senso che gli svedesi pensano che ci sia un sommergibile al largo delle loro coste, della Russia, che sta facendo un po' di manovra addirittura in avaria. Ovviamente è partita subito la caccia, sono impegnati cacciamine, corazzate, ogni tipo di caccia, migliaia di uomini, così, elicotteri, eccetera. Per ora non l'hanno beccato. Mosca, nella miglior tradizione della guerra fredda, ha risposto: non c'è alcun sottomarino russo al largo. Quindi aspettiamo, è una bella storia, eh? Mi bellissima. Ricorda quella del Kursk anche. Quella del Kursk, esatto. Il cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me, non è convinto che sei andata via. Allora, questo è un classico che serve a introdurre invece grandi innovazioni. Qui a Mix 24 raccontiamo sempre il fenomeno della digitalizzazione della realtà, e da mesi raccontiamo come l'industria automobilistica si stia rivoluzionando completamente, diventando, si dice termini tecnici, net-centric, quindi è il web, sono i dati, sono le connessioni che stanno cambiando i concetti di produzione e di marketing. E cambiano l'automobile. Leggendo una cosa, ho scoperto che la Ford sta studiando un sedile che monitora il cuore, e se tu disgraziatamente hai un problema al cuore, un attacco, un infarto e così via, il satellite prende il controllo dell'auto e ti porta in salvo. E ti paga anche il ristorante. Beh, insomma, no, non so se hai voglia di andare al ristorante dopo un attacchino di cuore. Insomma, però insomma, è qualcos'altro, se un qualcosa, piccolo contributo un te lo piccolo dà. Contributo te lo dà, però capisci? Pum, tutto la concorrenza diverso. Cosa produce? Cose grosse. Sentiamo la quota rosa, cosa ci racconta il lunedì. Lei mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Ragazzi, trasgredire costa, sono finiti i bei tempi. Stanno misurando l'impatto economico dei tradimenti. Eh sì, infatti tradire significa fare regali riparatori, possibilmente di lusso, perché bisogna convincere l'amante che si fa sul serio, giusto Mario? Sì, però non tu è che c'è una grande novità in questo. Cosa regaleresti a un'amante arrabbiata? Fiori. Solo? Come sono? Fai scendere il PIL. Vabbè, adesso la novità è che pare siano le amanti stesse che per consolarsi si scatenano comprando vestiti, borse, facendo viaggi in ogni dove. Quindi pare che la crisi abbia decimato tradimenti e divorzi, e anzi faccia sposare di più in Giappone e a casa nostra. Quindi la buona notizia del lunedì è che chi ha caccia si consoli. Ma addirittura è così forte la voglia di sposarsi in questi tempi di crisi che questo weekend è stato celebrato in un centro commerciale e anche sponsorizzato dal centro commerciale un matrimonio. Cioè si sono sposati tra i peperoni del supermercato e i televisori. E consumiamo anche questo matrimonio. E li ha sposati il sindaco di Roma? No, al nord. No, perché erano maschio e femmina. È vero, confermo, erano maschio e femmina. Salamini. Si sposano. Come Paggio Fernando, così ha scritto Eugenio Scalfari di lui domenica. Un bellissimo giovane che gioca a scacchi con una principessa straniera che corteggia e che vuole sposare. E lui la nazione la vuole sposare, e lui vuole essere per la nazione il miglior partito, e porta in dote la sua dote. Quella della politica politichese, quella che si inventa da sola le soluzioni. E lui è questo. Vorrei comprare una vocale, la A di Adone. 4. Faccio l'arbitro di calcio come hobby. In che serie? Sono a livello dilettantistico, in seconda categoria. Vorrei dare la soluzione. Vorrei vedere. L'Antartide. Montagne di ghiaccio e un mare di navi. Renzi ci lascia, però con una bella cifretta. Eh sì, con i 2 milioni di questa sera va a 48 ecco, milioni. Ecco, lui è questo. E Francesco Palmieri, che è mastro d'armi, ha capito tutto. Renzi, piano piano, sta tornando allo stato primigenio, cioè quello di concorrente dei quiz TV. E tutto ciò nel frattempo che il Cavaliere invece dice che la televisione non la vede più nessuna, ma la vena è viva, l'acqua gli va per l'orto, e lui secondo me non è Paggio Fernando. Lui, che è il successore vero del CAV, fondatore del Partito della Nazione, è Giusto Fortunello. Ascoltate se non è preciso Renzi. Sono un uomo grazioso bello, sono Fortunello, sono un uomo ardito e sano, sono un aeroplano, sono un uomo assai terribile, sono un dirigibile, sono un uomo che va dal fulmine, sono un parafulmine, sono un uomo senza nei, sono il 26, sono un uomo eccezionale, posso, sono un figlio nato. Per una volta, vai Mario, posso spezzare una lancia in favore di Renzi, per una volta. Allora, spezza, non è grave. No, però insomma, allora, quello è andato da Carmelita ieri, no? Buona domenica alla D'Urso. Ma secondo voi uno che va a caccia di voti, giustamente, prima o poi si voterà, dove pubblico deve andare? Va dal suo pubblico. Certo. Tutti lì, tutti questi esteti della televisione che in realtà confondono l'estetica televisiva con l'estetista. Cioè, ma di cosa parlano? Il problema è che lui creerà un'Italia a dimensione da estetista. Ma vabbè, ma non è così. Lui, rispetto a Berlusconi, lo sai perché è peggio di Berlusconi? Perché lui, come dice Silvio, che in un lapsus ha spiegato tutto, non ho fatto finta di essere di sinistra, lui facendo quello di sinistra ha pure annientato la possibilità di critica, tant'è vero che gli italiani conformisti si precipiteranno. Certo, perché almeno Berlusconi aveva nella società un'opposizione, questo invece c'ha tutto fabbricherà nulla. Lui è stato bravissimo, fabbricherà nulla. Lo dico io che mai renziamo, non c'è bisogno di qualificare. Diciamo, vedremo. Sarà la storia di vedremo, già si vede. Cazzo niente. Amerigo, buonasera. Sedeva nella terza sezione penale della corte di Nuova York in attesa di giustizia. Voleva vendicarsi di chi aveva tanto crudelmente ferito sua figlia e per di più tentato di disonorarla. Mix 24. Mario, c'è ancora una bolla? Sì. Di rivista, un po' di teatro, e in realtà andiamo dall'altra parte del mondo, andiamo in Giappone, perché insomma la Benomics, stavolta solo in questo caso è diventato Abe Comics. Perché Yoko Buchi, il ministro del commercio giapponese, si è dimesso. È stata un po' fregata dallo spettacolo perché dei gruppi politici a lei legati hanno speso in due anni $400,000 in eventi teatrali che però non sono contabilizzati bene, non sono giustificati. Vabbè, insomma, se n'è andata. Se n'è andata. Per Shinzo è un brutto colpo perché la Buchi non era solo uno dei cinque ministri donna del governo, ma era anche una portatrice dell'immagine del premier. Aveva convinto o comunque aiutato il premier a diffondere la sua volontà di far ripartire il programma nucleare. È stata la Buchi a convincere i giapponesi ad appoggiare il governo. Vabbè, che succederà? Un po' di perdita di consenso. Stamattina la borsa di Tokyo è andata bene, però. Vediamo Salamini. Arremba sempre Z0 Alfa. Allora, chi ha letto oggi il commento di Antonio Polito sul Corriere della Sera ne ha cavato fuori un concetto molto semplice ed efficace, e cioè che se Bossi era una costola della sinistra, ricordate la frase di Massimo D'Alema, Salvini può diventare la spina dorsale di una destra che oggi ne è priva. E quindi di quel che fu l'invincibile esercito del centrodestra al netto del nodo vero, e cioè che intanto il successore di Silvio Berlusconi è Renzi, l'altro Matteo, ossia Salvini, a oggi è quello che ha più voti di Alfano, più di quelli di Fratelli d'Italia, più di quanti ne possa recuperare Casini o i moderati vari, ed è in sintonia con radici economiche e sociali di un blocco più ancora che di quelle identitarie. Allora io ne proporrei questa morale, e cioè che se Matteo Renzi sta trasformando il PD nel partito della nazione, l'altro Matteo sta facendo un capolavoro, ha trasformato la Lega nel partito della sovranità, e quindi con Z0 Alfa arremba sempre. No, io sono, posso una domanda? No. Non ce l'ho. Purtroppo non abbiamo tempo. Simonelli, professor Simonelli, professore di storia della televisione La Cattolica, che cosa guardiamo questa settimana? Cominciamo a sentire prima di guardare. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance. E allora? Une belle histoire, questo forse neanche il grande esperto di cantautorato la conosce. Una canzone francese che celebra la poesia dell'autostrada, perché questa sera comincia e finisce domani una fiction su Rai 1, La strada dritta, tratta da un libro di Francesco Pinto. Infatti noi racconteremo la storia dell'autostrada del sole domani. Allora, ve la segnalo perché mentre la fiction che piace ai critici, di fantasmi, di revenant, di vampiri, di gotico, Rai 1 continua nella sua attività pedagogica di riscrivere, di rileggere e riscrivere la nostra storia recente. Perché noi magari sappiamo chi ha costruito. Vabbè, con successo, perché mi pare che stanno andando bene queste fiction. Noi sappiamo magari chi ha costruito la via Appia o la via Aurelia, non sappiamo chi ha costruito l'autostrada del sole che percorriamo in soli 8 anni. Ecco, e allora questo mi sembra una bella storia, una bella storia. Tre belle storie. Da vedere d'altro c'è qualcosa rapidamente, professore? Beh, intanto domani è l'anniversario, il 30° anniversario della morte del più grande regista cinematografico del secondo novecento, François Truffaut. E allora bisogna assolutamente ricordare questa cosa. E la televisione lo ricorda? Lo ricorda Rai 5 con un bellissimo documentario, Les Deux de la Vague, i due della Nouvelle Vague. Mi sembra che sia una cosa che bisogna fare. Se la fa Rai 5, merito Rai 5. Bene, allora se merito Rai 5. Qualcun altro lo diremo. Grazie professore, grazie. Per la storia di Marina Milone, oggi racconteremo una storia di cronaca che ha sullo sfondo gli eventi degli anni 70. È una storia di cronaca che ha fatto molto discutere, è la storia di Franca Ballerini e Paolo Pan, subito dopo il giornale radio, ma intanto abbiamo al telefono Carlo da Treviglio. Carlo, pronto? Buongiorno. Lei ha inventato, ha indovinato il nostro canzoniere? Sì. Dica. Niente, è la prima scena del film praticamente, quando viene invitato Quando di quale film? Non ha detto il film? Del Padrino. Ah, però Padrino, più esattamente è l'incipit del romanzo di Mario Puzo. E anche Padrino. Del film. No, vabbè. Sì, va bene. Però okay. Cominciamo dalla coda quando ci sono un bel paio di corna da raccontare. Bene, bene, grazie. Prendiamola per buona, dai. Avanti, buona. Ha vinto il Feltrinelli. Grazie. E per finire... Buona giornata. Grazie, per finire una bella canzone proposta dalla regia. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava una tua frase.